Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, sono le 12:17, appuntamento conclusivo per questa settimana con Salva Danaio. E come potevamo chiudere la settimana se non parlando di mercati, facendo il punto della situazione di un'altra settimana che ha visto grande euforia, ad esempio mercoledì, e oggi invece cautela, molta cautela sui mercati europei. Ricordiamo intanto che questa mattina Tokyo ha chiuso in flessione di quasi un punto percentuale e ieri Wall Street ha chiuso sulla parità più o meno. In questo momento Parigi guadagna uno 0,09%, Francoforte lo 0,22%, Londra invece resta negativa con una flessione in questo momento dello 0,13%. A Milano il FTSE All Share è poco al di sotto della parità, il FTSE MIB poco al di sopra invece della parità, ma sostanzialmente gli indici sono piatti. Sul listino principale il miglior titolo è l'Automatica, che guadagna l'1,64%, Fiat guadagna l'1,29% avendo già scontato i dati relativi alle immatricolazioni, che, lo dicevamo anche nel corso del giornale radio, vedono il gruppo Fiat in flessione del 21,6% a settembre, però ricordiamo che ad agosto la flessione era stata del 23,9%. In generale le immatricolazioni hanno subito un altro calo per il sesto mese consecutivo, sono scese del 10% circa, e l'Italia è stato uno dei paesi più colpiti assieme alla Spagna. Bene anche la Popolare di Milano, che guadagna l'1,15%, Intesa San Paolo in progresso di un punto percentuale. In fondo al listino invece amplia ancora le perdite Saipem, che cede l'1,61%, Telecom Italia l'1,31%, Bulgari l'1,18%, il Banco Popolare e Ciro cedono intorno al punto percentuale. In questo istante cambio euro su dollaro 1,40,79. Diciamo che l'Europa è in attesa del discorso di Ben Bernanke alle 14:15 ora italiana, ed è in attesa anche di alcuni dati, altri dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, il dato relativo alle vendite al dettaglio, la fiducia del Michigan e la trimestrale di General Electric. Questi potrebbero essere dati che in qualche modo movimenteranno un po' i mercati nella seconda parte della giornata. Noi siamo attualmente in collegamento telefonico con il dottor Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroders Italia SIM e responsabile Italia del Private Banking, che saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Alle 12:30 ci raggiungerà telefonicamente il dottor Angelo Drusiani, responsabile gestioni di Banca Albertini. Vi ricordo i nostri numeri: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Adesso la nostra scheda. Euforia da un lato e incertezza dall'altro, nella settimana dei mercati che va a chiudersi oggi. Mercoledì le borse hanno registrato un balzo in avanti che ha visto Milano, Parigi, Londra e New York ai massimi degli ultimi sei mesi e riportato Francoforte sui livelli dei primi di settembre 2008, precedenti al crack Lehman Brothers. A spingere i mercati al rialzo ha contribuito la notizia secondo la quale la Federal Reserve sarebbe intenzionata a fornire nuove iniezioni di liquidità al mercato. Sembra lontana al momento una tregua per la cosiddetta guerra delle valute, e fino ad ora non hanno portato a molto, a quanto pare, neanche gli incontri del Fondo Monetario Internazionale tenutisi a Washington nei giorni scorsi. I produttori americani accusano Pechino di tenere forzatamente basso lo yuan per favorire l'export a loro discapito, e il dollaro nel frattempo continua a scivolare sull'euro. A beneficiarne, come sempre in queste situazioni, sono le materie prime, in particolare l'oro. Il metallo giallo, che in un mese si è apprezzato di circa il 10% e dall'inizio dell'anno ha totalizzato quasi il 25%, ieri ha infatti raggiunto l'ennesimo record, superando quota $1,380 l'oncia. Gli occhi degli investitori restano dunque puntati alle prossime mosse della Fed, dietro alle quali molti vedono anche l'esigenza di restituire un po' di energia all'economia in vista dell'appuntamento elettorale del 2 novembre. E se da un lato la notizia può avere fatto salire le borse, dall'altro non si può certo interpretare come un segnale reale della fine della crisi. Allora, Allora, lo sentivamo anche nella nostra scheda, tensioni sui mercati valutari. Questo, tra l'altro, ha favorito anche il rialzo, diciamo così, parlando di tensioni sul mercato valutario, il rialzo dell'Euribor, che non è sicuramente una bella notizia per tutti coloro che hanno un mutuo trimestrale, ma dobbiamo purtroppo registrare anche questo fatto. Dottor Marsi, come intanto un primo giudizio su questa settimana, visto che appunto abbiamo visto mercoledì una giornata veramente buona per le borse, almeno per quanto riguarda quelle del vecchio continente, ieri no, diciamo di no, oggi appunto molta cautela. Ma guardi, allora nel brevissimo termine ci dobbiamo aspettare una volatilità che sale, perché siamo a livelli direi minimi negli ultimi 4 anni. Comunque, mentre il rialzo delle borse era dato soprattutto da una situazione in cui una politica monetaria ancora espansiva poteva portare ad un switching degli investimenti dalle obbligazioni alle azioni, adesso sicuramente quello che disturba un po' è capire che come andrà effettivamente l'economia, e questo è molto legato all'andamento dei cambi. Per questo motivo noi abbiamo due tipi di paesi: uno, un insieme di paesi che sono in disavanzo commerciale, un altro che sono in estremo avanzo commerciale delle partite correnti. Quelli che sono in disavanzo devono far diminuire la crescita della domanda interna e aumentare le esportazioni, e questo di solito lo si può fare svalutando la divisa. Quelli in avanzo delle partite correnti devono fare esattamente il contrario, devono far aumentare la domanda interna e diminuire, e aumentando il valore della propria divisa, e diminuire le esportazioni. Se questo ribilanciamento non avviene, purtroppo il prodotto di un ribilanciamento che viene meno per motivi politici interni di ciascuno produce di fatto una possibile ancora recessione economica. Quindi quello che si sta vedendo in questo momento è capire se i cinesi e tutti i paesi che sono in avanzo, sì, rivalutano le loro divise rispetto all'America, all'Inghilterra e alla stessa Europa, oppure no. L'Europa poi, se vuole, in qualche minuto poi spiegherò più avanti la situazione europea. Però questo, diciamo così, che vedere che cosa è successo nelle ultime settimane è piuttosto difficile che almeno possa avvenire, se non con molta lentezza, ad esempio da parte della Cina, che comunque resta sempre, come dire, la nostra, la vediamo sempre come la nostra ancora di salvezza. Beh, è un'ancora di salvezza che però fa i suoi interessi. Certamente, è quello il punto. Di fatto gli interessi della Cina a un certo punto devono cambiare, perché non può pensare la Cina di continuare ad esportare mantenendo una valuta artificiosamente bassa, perché questo metterà in ginocchio gli altri paesi e produrrà una recessione, perché gli altri paesi sono indebitati e devono rientrare del debito, quindi dovranno ripagare questo debito in qualche modo, e il modo è sicuramente recessivo, a meno che non si sfocia appunto in una svalutazione rispetto alla Cina. Se Cina non permetterà di farlo, vorrò vedere a chi esporterà. Capisce? Quindi certo, è un equilibrio che alla fine, magari pur lentamente, magari non immediatamente come tutti si aspettano, perché tutti vogliamo tutto subito, ma fondamentalmente un riequilibrio che la Cina sta piano piano facendo, forse troppo lentamente, però c'è chi dice ai cinesi non bisogna mettere fretta, perché sennò si ottiene esattamente il contrario. Allora, io intanto ricordo i numeri 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Dottor Marsi, invece, per quanto riguarda l'Europa, lei diceva poi spenderemo qualche minuto, facciamo anche il punto proprio sulla situazione europea. Sì, la situazione europea è più complessa, perché come vedete l'euro si sta rivalutando. Perché? Perché la maggiore economia europea è in surplus, e tra quei paesi tipo Cina che vanno bene, domanda interna bassa, però esportano bene. Però nello stesso tempo l'euro non è solo rappresentato dalla Germania, è rappresentato da tutti gli altri paesi, i cosiddetti PIGS, come li vogliamo chiamare, ma che comunque non stanno invece con avanzi primari. Ricordiamo chi sono questi paesi, che sono Portogallo, Italia, Spagna e Grecia. Sì, e Irlanda. Irlanda direi che ultimamente, certo, sì, ormai, sì, esatto. No? E quindi questi paesi, di fatto nella stessa divisa, la cosa peculiare europea è che la stessa divisa rappresenta una serie di paesi in surplus e una serie di paesi in estremo deficit di partite correnti, per cui, e di indebitamento, per cui l'interesse della Germania non coincide con l'interesse della Grecia, dell'Italia, della Spagna, che vorrebbero invece svalutare grandemente l'euro. Certo. Quindi questo è un discorso un po' più complesso che in teoria, se tutto fosse così virtuoso, dovrebbe sfociare al finanziamento dei deficit da parte della Germania o comunque un meccanismo di trasferimento della ricchezza che loro creano verso i paesi satelliti, però è difficile pensare che questa Unione Europea… È molto difficile. Sì, è abbastanza difficile. Diciamo che già siamo stati abituati in passato a più di un episodio in cui, non avendo gli stessi interessi, poi non si è raggiunto il risultato finale. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Alle 12.34 minuti, di nuovo in compagnia di Salva Danaio, saluto subito il dottor Angelo Drusiani, responsabile gestione Banca Albertini SIDS, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Grazie molto e buongiorno a tutti. E registro anche qualche messaggio al 349-238-6666, non proprio gentile nei confronti dei cinesi, ma sorvoliamo, diciamo, sui termini utilizzati. Subito dal signor Gianni da Varese, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signorina, grazie mille per avermi chiamato. Io volevo sottoporre questo quesito agli esperti, volevo dire, stando questa crisi valutaria, questa lotta tra le valute, tra le monete, no? Secondo me sarebbero da privilegiare come asset allocation i beni reali, a cominciare prima di tutto dagli immobili, no? Poi dai metalli, cosa che sta già avvenendo sui mercati, dai metalli preziosi a tutto il resto, e infine le azioni, perché le azioni fanno parte di un pezzo di azienda, ad esempio quelle società che fanno un servizio praticamente monopolio, tipo, non so, Snam, Rete Gas, Terna e le autostrade. Cioè, è giusto questo ragionamento. Allora, grazie mille. Grazie, buongiorno a lei. Dottor Drusiani, vista questa guerra delle valute, meglio rifugiarsi nelle case o nell'oro, nuove quotazioni record, qui si supereranno magari anche i $1,500, e azioni di società, diciamo così, di un certo tipo? Io credo che la diversificazione degli investimenti sia la base essenziale di ogni tipologia di politica di gestione che deve effettuare sia il professionista sia il privato che preferisce gestire da sé il patrimonio. E indubbiamente in questa diversificazione possono comparire tutte le voci, comprese anche gli immobili, ovviamente tenuto conto del patrimonio che si ha, perché gli immobili non è che costino molto poco, sono prezzi ancora molto alti, perlomeno in Italia sono scesi nei punti più importanti, per esempio a Milano, sono scesi in maniera molto molto risibile. Di conseguenza sì, la scelta può essere opportuna, soprattutto secondo me la scelta può essere opportuna se si fa riferimento alle azioni, in particolare è opportuno tener conto di quanto sta accadendo sul mondo. Il mondo ovviamente, lo abbiamo visto, se ne ragiona più volte, ormai si sta spaccando, l'Occidente maturo è un po' in crisi, cresce in maniera molto contenuta, si sviluppano le aree periferiche, quelle degli ex paesi emergenti, e anche aree molto più vicine al vecchio Occidente, pensate ad esempio alla Turchia o alla Polonia, che stanno crescendo in maniera molto importante. Di conseguenza, oltre ad investire in azioni, ma soprattutto in fondi di investimento che operano in questi paesi, è interessante investire in società di area euro o europea in particolare, anche della cosiddetta economia matura, che hanno un'attività intensa con questi paesi. Ad esempio molte società tedesche hanno dei contratti importantissimi con la Cina, continuano a esportare nonostante l'euro sia salito a questi livelli, ed manifestano una crescita economica molto molto importante. Certo, questo però, come dire, necessita anche di una conoscenza abbastanza approfondita anche delle singole società, delle aziende. Insomma, come al solito, sempre lo stesso discorso, bisogna sempre essere molto attenti, conoscere molto bene, non avventurarsi laddove si ha una conoscenza troppo sommaria di ciò in cui si va ad investire. Signor Paolo da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei. Signor Paolo? Pronto? Sì, buongiorno, le devo chiedere subito di abbassare il volume della radio. È abbassato, abbassato. Perfetto, perché c'era l'eco e sentivamo il ritorno. Ma dunque, sì, buongiorno. Non sono ovviamente un... No, sono anch'io risparmiatore come soggetto singolo, ma sono un operatore del mercato. E oltretutto sono anche professore universitario, ma questo ha aggiunto in un'università anglosassone specificamente americana. Quello che faccio soltanto riferimento un attimo a un mio intervento di 2 anni fa, nella quale devo dire che le posizioni degli interlocutori che avete sono piuttosto cambiate. Mi fa molto piacere, perché l'arroganza epistemica, mi scusi il modo di parlare, che c'era ancora 2 anni fa, a oggi è assolutamente cambiata, e l'intervento del collega di Schroeder è comunque molto sensato e molto sano. Quello che volevo, sul quale volevo intervenire, magari può essere un po' fuori tema, perché io non parlo di mercati, non parlo di titoli o di altri elementi, lavorando esclusivamente unicamente su derivati e quindi su strumenti che non fanno il caso dell'informatore. Sì. Quello che posso dire soltanto, e in maniera molto semplice e molto rapida, è questo: io vorrei ancora una volta non fare la Cassandra, ma insieme all'amico, grazie al cielo che ce l'ho perché mi ha insegnato moltissimo, Nassim, Nicolas Taleb e il Rubini, ricordare che questa non è una crescita. Questi momenti di crescita non sono dovuti a una crescita strutturale dei mercati. Effettiva. Ma sono dovuti unicamente a degli spike che si risolvono su delle news. Non c'è alcun tipo di elemento specifico che possa dare, a mio avviso ovviamente, poi certo, ripeto, è tutto quanto assolutamente non relativo, sì, ma sì, assolutamente sì, da prendere in considerazione in termini iumiani, non c'è assolutamente alcun tipo di definizione specifica nel quale il mercato debba andare su o debba necessariamente andare giù. Come io vedo invece la situazione è assolutamente e precisamente, non in termini, ripeto, tutto può essere, certo, di un double dip, nella quale ci stiamo muovendo su delle... Io sto parlando soprattutto dei mercati, del mercato americano, sì, su cui faccio riferimento, sul mercato e sul DAX, e sul mercato europeo tedesco, non di certo sulla borsa italiana, che sostanzialmente, mi scusi con tutto il rispetto per l'operazione, per gli operatori italiani, mi fa veramente un po' ridere. E al di là di questo, in tutti i sensi, sia nel termine degli equity, sì, in termini di derivati. Le devo chiedere di essere un po' più conciso, signor Paolo. Sì, ecco, in questo senso posso dire, mi sembra che qualsiasi tipo di... Se uno proprio vuole stare tranquillo, vada a prendersi, a accontentarsi del 2.5, del 3% che gli viene riconosciuto da Treasuries o da altri elementi a rischio zero. Sì. E stia fermo lì per un po'. Allora, grazie anche alla riflessione del signor Paolo da Milano, perché comunque è una riflessione, anche se diciamo così, per usare un eufemismo, poco ottimistica, comunque è una riflessione. E su questo chiederei un commento a entrambi i nostri ospiti, sia al dottor Marsi sia al dottor Drusiani, cominciando dal dottor Marsi, se anche lei la vede così nera. Ma guardi, è fuor di dubbio che le politiche monetarie che sono in atto non creano posti di lavoro, ma creano altre bolle sugli investimenti di asset finanziari e reali, non controllabili. Cioè, l'aumento di massa monetaria non è controllabile, può andare sull'oro, può andare sugli immobili, può andare sulle azioni. Qui l'importante è creare posti di lavoro. Creare posti di lavoro che cosa vuol dire? Vuol dire non tarpare le ali alla crescita dei paesi emergenti, ma spingerli ad aumentare la loro attenzione verso la crescita del consumo interno. Non tarpare le ali vuol dire anche realizzare che l'America e altri paesi indebitati questo debito lo devono in qualche modo ridurre, e quindi per ridurlo devono far sì che la propria popolazione consumi di meno. Può restare una crescita naturalmente se queste due diciamo così forze, una che mira a una crescita economica più debole, quella dei paesi diciamo così industrializzati, e quell'altra invece dei paesi emergenti, che devono invece spingere la propria popolazione a consumare di più, troveranno un equilibrio. Se non lo si trova, è vero che si potrebbe andare naturalmente a un altro periodo di, come posso dire, di recessione, però stiamo attenti perché non è detto che la recessione coincida con una situazione borsistica negativa, perché se ci inondano di liquidità si crea un'altra bolla. Certo, e infatti proprio a proposito di questo pericolo bolla, qualche giorno fa sul Sole 24 Ore un articolo riportava che su alcuni blog più in voga fra gli operatori di Wall Street c'è proprio chi parla sempre con maggiore insistenza di bolle speculative proprio a causa di questa politica monetaria espansiva. È d'accordo, dottor Drusiani? Indubbiamente la situazione che, se lei fa riferimento alle quotazioni di titoli obbligazionari, sì, il rischio che ci siano delle quotazioni eccessive, quindi dei rendimenti troppo bassi, esiste già da tempo. Peraltro l'ascoltatore poco fa diceva che bisogna cercare la sicurezza accontentarsi di rendimenti bassi, quindi questo in teoria potrebbe essere una situazione che ha favorito il rialzo delle quotazioni in maniera importante. Io sono dell'opinione che più che una bolla sarà un mercato che si sgonfierà lentamente mano a mano che l'economia del mondo crescerà, perché l'ascoltatore di prima mi pareva che concentrasse la propria attenzione sull'Europa, sull'Occidente in generale. L'Occidente è chiaro che è un po' in difficoltà, però il mondo nel suo complesso cresce, quest'anno addirittura si ipotizza una crescita di poco inferiore al 5%, che sono valori rilevantissimi. Bisogna tener conto che il mondo non è più solo in Occidente, il mondo è un po' altrove. Esattamente. Forse è questo che ci frena un po', perché a volte abbiamo una visione un po' miope. Sì, noi abbiamo gioco forza, così come l'uomo per tanti anni ha dominato sulla donna, l'Occidente ha dominato sull'Oriente e sul resto. È chiaro che adesso siamo in una situazione in cui il mondo, per fortuna o per sfortuna nostra, per fortuna degli altri, sta cambiando, quindi pensare che i mercati debbano andare male solo ed esclusivamente perché l'Occidente crescerà poco, io sono d'accordo col collega che ha parlato poco fa di Schroeder, secondo me i mercati penalizzeranno probabilmente quei paesi in cui la crescita sarà modesta, ma viceversa si comporterà in maniera esattamente opposta per i paesi, non dico la Cina, dove i mercati sono cresciuti troppo, dove il rapporto tra prezzi e utili è esagerato, però ci sono tanti altri paesi, facevo prima riferimento alla Turchia, alla Polonia, che sono paesi più vicini a noi. Secondo me in quei paesi ci possono essere delle ottime opportunità. Allora, ci dobbiamo fermare per qualche istante. Chiedo quindi un po' di pazienza al signor Gianni da Bolzano. Noi diamo la linea alla viabilità. Allora, benvenuto anche al signor Gianni da Bolzano. Ci dica. Sì, buongiorno. Volevo fare solamente un paio di considerazioni sul cambio euro-dollaro. Sì. Ho qua davanti a me proprio un report di maggio, quindi più o meno nel pieno della crisi greca, un report di un'importante banca, e c'è uno di quei, come si chiama, dei consensi svolti su più operatori del mercato, su più banche, su più sim. La maggior parte di questi, un 80-90%, vedeva il dollaro nel medio periodo tendente, diciamo, a un cambio tipo 1-1,10. Oggi siamo ben oltre, intorno, mi sembra, all'1,40-1,39. Guarda, le dico per la precisione, in questo istante 1,40,75. Perfetto. Ecco, ora mi chiedo sinceramente, senza offendere i presenti, quanto utili siano certe previsioni. Allora, abbiamo signor... visto sicuramente negli ultimi 10 anni che la maggior parte delle previsioni, sia di medio che di lungo periodo, erano piuttosto mal formulate, mal azzeccate. Anche in questo caso, appena a una distanza di appena 4 mesi, 5 mesi, sinceramente mi fa sorridere la cosa. Allora, senza non solo offendere i presenti, ma anche magari gli autori del report, perché a volte è piuttosto difficile fare delle previsioni e quindi immagino ci saranno delle grosse premesse anche in questi report. Dottor Drusiani, vorrei ripartire da lei. Possiamo fare un discorso più generale forse e tenere presente l'ultima parte dell'intervento del signor Gianni. Quanto può aver senso in un periodo così difficoltoso fare delle previsioni, diciamo così, che nel caso specifico possano essere così precise? Le previsioni devono essere fatte perché nel momento stesso in cui si decide di strutturare un portafoglio bisogna ipotizzare quali possono essere le prospettive future per quanto riguarda i mercati azionari, obbligazionari e anche quelli valutari. Poi se intervengono delle situazioni politiche come sono intervenute negli ultimi tempi a livello mondiale, Evidente, io faccio un esempio molto semplice, solo una settimana fa, quando già il rapporto euro-dollaro si portava verso una 35, una 36, bastava guardare che le notizie economiche che arrivavano dagli Stati Uniti erano ottime, mentre viceversa si temevano di nuovo delle difficoltà sull'Irlanda, ricorderete il problema. Sì, certo. In quel momento l'euro è salito ancora, c'è una spiegazione, io non credo che sia una spiegazione razionale, c'è una spiegazione politica. Gli Stati Uniti hanno deciso di svalutare la propria moneta per cercare di incrementare il PIL, per arrivare probabilmente alle elezioni di medio termine, facendo credere che forse con la svalutazione del dollaro potrebbero aumentare i posti di lavoro. Ed è evidente che è una situazione politica a cui i gestori non possono fronteggiare, che non possono conoscere prima, per cui chiaro, le previsioni si fanno per strutturare un portafoglio, poi è evidente che le previsioni possono a volte anche essere sbagliate, Bisogna anche l'umiltà di ammetterlo. Assolutamente sì, ma sicuramente ci saranno appunto state anche delle premesse a queste previsioni. Assolutamente sì. È ovvio che poi ci sono dei fatti legati alla politica che intanto non possono essere previsti e presi in considerazione con così tanto anticipo. Abbiamo visto a proposito proprio delle elezioni di midterm americane cosa è successo nella squadra di Obama per poi cercare di porre rimedio a tutta una situazione che vede sfavoriti in questo momento i democratici. Dottor Marsi, anche da lei un'opinione proprio a proposito della riflessione del signor Gianni. Ma guardi, devo dire che io sono sempre scettico sulle previsioni perché come tutte le cose, qualunque cosa è difficile da prevedere, certo. Ma mai come, gli ascoltatori devono rendersi conto che mai come in questi momenti la politica e le decisioni politiche avranno un'influenza sia sull'andamento delle valute che sull'andamento dell'economia. Nessuno di noi può immaginare quali saranno le scelte politiche importanti e anche eventualmente impopolari che dovranno essere presi in certi paesi. Certo. Noi lo sappiamo tutti, l'America la guardiamo, i democratici sono in grandissima difficoltà, non si sa se virino molto più a sinistra piuttosto che a destra. C'è chi dice che vireranno a sinistra e quindi lasceranno ancora di più il rafforzamento probabile ai repubblicani. Comunque sono tutte delle situazioni in cui le scelte politiche influenzeranno da morire sia i nostri portafogli che il nostro modo di vivere nei prossimi anni. Le scelte politiche di per sé, purtroppo, siccome non sono guidate essenzialmente da visioni di lungo termine, tranne che nei paesi emergenti, devo dire, ma sono guidate da visioni molte volte, ahimè, di breve termine, di sondaggi, sono imprevedibili, per cui potranno influenzare e dare grande volatilità alla nostra vita futura. Francesco da Trento, buongiorno, benvenuto, le chiedo una certa rapidità. Buongiorno, io volevo solo dire una cosa, allora, riguardo ai paradisi fiscali e alla lotta in particolare all'evasione fiscale, c'erano appunto stati vari interventi, prima appunto un Consiglio europeo a cui aveva partecipato anche il nostro Presidente del Consiglio e successivamente poi appunto lo scudo fiscale. Io volevo solo chiedere, è avvenuta veramente la lotta ai paradisi fiscali che ha effettuato il nostro ministro Tremonti e qual è la condizione economica di alcuni paradisi fiscali adesso, come per esempio europei, come per esempio Liechtenstein, il Lussemburgo o la Svizzera? Questo volevo chiedere. Allora, signor Francesco, forse queste sono considerazioni più politiche che di mercato, visto che si parla proprio della lotta ai paradisi fiscali e lì l'intervento è ovviamente politico di ogni Stato e a livello europeo della Commissione e del Consiglio europeo, quindi forse i nostri ospiti non sono proprio gli interlocutori più adatti per rispondere a questa sua domanda. Non so se poi il dottor Drusiani o il dottor Marsi vogliono intervenire, ve lo chiedo velocemente. Due parole. Sì, prego. Io dopo le dico. Sì, prego, prego. Prima il dottor Marsi. Sicuramente ci dobbiamo aspettare in tutti i paesi una stretta da un punto di vista sia di fiscale che di controllo all'evasione. Sì. Mancano i soldi, per cui bisogna trovarli. Quelli mancano sempre, purtroppo. Ahimè. Allora, dottor Drusiani. Sì, per quanto riguarda come stanno i paesi, faccio riferimento a questi europei, tenga conto l'ascoltatore che la Svizzera, il franco svizzero in particolare, in questi tempi ha messo assieme dei guadagni importantissimi nei confronti anche dell'euro e anche di altre monete. Quindi significa che i paesi hanno superato la crisi del rientro dei capitali, dell'uscita dei capitali dai loro forzieri senza particolari problemi, strutturando meglio l'industria e lavorando ancora in maniera tale da far sì che il prodotto lordo cresca in maniera importante. Quindi credo che in definitiva i problemi temporanei siano stati superati abbastanza bene. Allora, ci resta davvero pochissimo tempo. Io vorrei una battuta da entrambi i nostri ospiti, perché visto che la guerra delle valute è stata veramente al centro in queste ultime settimane delle notizie dei mercati, vorrei farmi dire da voi se questo può aver e deve spaventare il risparmiatore e che quindi forse è meglio che in questo periodo si tenga abbastanza tranquillo, oppure no, ci sono margini di guadagno anche per, diciamo, non proprio quello esperto. Prima il dottor Drusiani. Secondo me la propensione al rischio di un risparmiatore, di un investitore che decide di investire in strumenti denominati in valuta diversa dall'euro deve essere altissima. Sì. Io ricordo solo che nel 2003 il dollaro si svalutò del 23% nei confronti dell'euro. Questo significa che le oscillazioni delle quotazioni, dei cambi sono molto molto importanti. Quindi se è un ex bot people, meglio rinunciare a comprare titoli denominati in valuta estera. Sì. Dottor Marsi. Ma direi che sono fondamentalmente d'accordo con il mio collega. Direi attenzione, perché volatilità sulle valute purtroppo sarà elevata. Anche perché, lo dicevamo poc'anzi, dipendono anche molto dalle scelte politiche, certo. Quindi difficile a questo punto capire esattamente quali saranno le scelte. Grazie al dottor Drusiani, responsabile gestione Banca Albertini SIS, e grazie anche a Giuseppe Marsi, a Didi Schroeders Italia, SIM, responsabile Italia del Private Banking. A entrambi grazie per essere intervenuti e buon lavoro. Grazie. Io vi ricordo, prima di lasciarci, che domani, sabato 16 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, in occasione del Salone Franchising e Trade a Milano Fiera City, verrà presentato il libro Progettare il Franchising, Scenari e Opportunità di Investimento di Guido Kaufin e Cristina Savoldi, edizioni Markup. A tutti voi grazie per averci seguito. Salvadanaio torna lunedì.